ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. 28 settembre. Audi et alteram partem. Ascolta anche l'altra parte. Il bandito dal nome falso, coi gas benefici e i mughetti e l'infermiera corrotta. Mi aveva proprio fatto impressione sentirmi dire da quell'internista galante dagli occhi malinconici: lei ha una vita spirituale troppo intensa, le fa male alla salute, è troppo per la sua costituzione. Iope aveva sentito pensieroso quando gliel'avevo raccontato. Ho ruminato a lungo su queste parole e sono sempre più convinta del contrario. È vero che vivo intensamente. A volte mi sembra di vivere con un'intensità demoniaca ed estatica, ma ogni giorno mi rinnovo alla sorgente originaria, alla vita stessa, e di tanto in tanto mi riposo in una preghiera. E chi mi dice che vivo troppo intensamente non sa che ci si può ritirare in una preghiera come nella cella di un convento e che poi si prosegue con rinnovata pace ed energia. Credo che sia soprattutto la paura di sprecarsi a sottrarre alle persone le loro forze migliori. Se dopo un laborioso processo che è andato avanti giorno dopo giorno riusciamo ad aprirci un varco fino alle sorgenti originarie che abbiamo dentro di noi e che io chiamerò Dio, e se poi facciamo in modo che questo varco rimanga sempre libero, lavorando a noi stessi, allora ci rinnoveremo in continuazione e non avremo più da preoccuparci di dar fondo alle nostre forze. Non credo nelle determinazioni oggettive, infinito intrecciarsi di reciproche influenze umane. Dicono che sei morto troppo presto. Bene, allora ci sarà un libro di psicologia in meno, ma è entrato un po' più d'amore in questo mondo. . 29 settembre. Spesso dicevi: questo è un peccato contro lo spirito e si vendicherà. Ogni peccato contro lo spirito si vendica. Credo anche che ogni peccato contro l'amore per gli altri si vendichi, nella persona stessa come nel mondo circostante. Voglio ricopiare ancora una volta Matteo 6:34. Non siate dunque inquieti per il domani, perché il domani avrà le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Bisogna combatterle come pulci, le tante piccole preoccupazioni per il futuro che divorano le nostre migliori forze creative. Ci organizziamo l'indomani nei nostri pensieri, ma poi va tutto in modo diverso, molto diverso. A ciascun giorno basta la sua pena. Si devono fare le cose che vanno fatte e per il resto non ci si deve lasciar contagiare dalle innumerevoli paure e preoccupazioni meschine, che sono altrettante mozioni di sfiducia nei confronti di Dio. Andrà tutto a posto con quel permesso di soggiorno e con quelle tessere. È inutile che io ci rumini su. È molto meglio che faccia un tema di Russo. In fondo, il nostro unico dovere morale è quello di dissodare in noi stessi vaste aree di tranquillità, di sempre maggior tranquillità, fin tanto che si sia in grado di raggiarla anche sugli altri. E più pace c'è nelle persone, più pace ci sarà in questo mondo agitato. Poco fa, una piccola conversazione telefonica con Toos. Iope scrive di non mandare più pacchi. Sta succedendo di tutto laggiù. Anen ha scritto una lettera a sua moglie. Troppo poco per capirci qualcosa e troppo per non preoccuparsene. Fa paura. E poi Anche dentro di me c'è qualcosa che non funziona più bene. Bisogna reagire, bisogna sapersi isolare da quel chiasso sterile che si diffonde come una malattia contagiosa. Ma così posso di nuovo rendermi un po' conto di come stia tutta quella gente. Povere e aride vite. E così si arriva a dire, come ho sentito spesso, non riesco più a leggere un libro, non riesco più a concentrarmi. Oppure, una volta avevo sempre la casa piena di fiori, ma ora no. Ora non ne ho più voglia. Sono vite impoverite. Sono vite povere. Adesso so di nuovo che posizione prendere. Se solo si potesse far capire alla gente che si può lavorare alla propria pace interiore e continuare a essere produttivi e fiduciosi dentro di noi, malgrado le paure e le voci che circolano. Che possiamo costringerci a inginocchiarci nell'angolo più remoto e tranquillo del nostro essere e rimanerci fin tanto che su di noi non si stenda nient'altro che un purissimo cielo. Da ieri sera ho potuto di nuovo sperimentare su me stessa quanto la gente soffra. È un bene doverselo ricordare e dover reagire ogni volta. E poi continuare indisturbati a percorrere i vasti e sgombri paesaggi del proprio cuore. Ma non sono ancora a questo punto. Prima si va dal dentista e oggi pomeriggio sul Kaisersgracht. 30 settembre. Essere fedeli a tutto ciò che si è cominciato spontaneamente, a volte fin troppo spontaneamente. Essere fedeli a ogni sentimento, a ogni pensiero che ha cominciato a germogliare. Essere fedeli nel senso più largo del termine, fedeli a se stessi, a Dio, ai propri momenti migliori. E dovunque si è, esserci al 100%. Il mio fare consisterà nell'essere. Soprattutto devo essere più fedele a quel che vorrei chiamare il mio talento creativo, per modesto che sia. Ad ogni modo, ci sono tante cose che vorrebbero essere dette e scritte da me e dovrei finalmente mettermici. Invece cerco in tutti i modi di scappare e in questo manco. D'altra parte, so che devo aspettare con pazienza che le mie parole escano, ma devo anche aiutarle. È sempre così. Si vorrebbe scrivere subito qualcosa di straordinario e di geniale. Ci si vergogna delle proprie sciocchezze. Ma se io ho un dovere nella vita, in questo tempo, in questo stadio della mia vita, è proprio quello di scrivere, annotare, conservare. Le cose nel frattempo le digerirò comunque. Io leggo la vita come un tutto coerente. So che sono in grado di leggerla e nella mia presunzione e pigrizia giovanili penso che tanto mi ricorderò ogni cosa e che più tardi saprò anche raccontarla. Ma dovrò pur crearmi dei piccoli punti di partenza. Io vivo la vita sino in fondo, ma sento sempre più che ho delle responsabilità verso quelli che vorrei chiamare i miei talenti. Ma dove cominciare? Mio Dio! Ci sono così tante cose. Non devi neppure pretendere di scrivere le cose così come le hai appena vissute, con tanta intensità. Sarebbe un errore. Non si tratta di questo. Non so ancora come farò a dominare tutta questa materia. So soltanto che dovrò fare tutto da sola e che ho abbastanza forza e pazienza per riuscirci. Devo anche essere fedele. Non posso più disperdermi come sabbia al vento. Io mi divido tra gli affetti, le impressioni, le persone e le emozioni che mi toccano. Devo rimanere fedele a tutti, ma devo anche essere fedele al mio talento. Vivere tutto quanto non è più sufficiente, ci vuole qualcosa in più. Credo di vedere sempre meglio gli abissi che inghiottono le forze creative e la gioia di vivere dell'uomo. Sono buche che ingoiano tutto e queste buche sono nella nostra stessa anima. A ciascun giorno basta la sua pena. Inoltre, l'uomo soffre soprattutto per la paura del dolore. Ed è la materia, è sempre la materia che attira tutto lo spirito a sé e non viceversa. Vivi troppo con lo spirito. E perché no? Perché non ho abbandonato immediatamente il mio corpo alle tue mani desiderose? L'uomo è una strana creatura. Quanto vorrei scrivere. Da qualche parte in me c'è un'officina in cui dei titani riforgiano il mondo. Una volta avevo scritto disperata: è proprio nella mia testolina, nel mio cranio, che deve essere spiegato il mondo. Ora lo penso ancora, di tanto in tanto, con una presunzione quasi diabolica. Riesco sempre più ad affrancare la mia forza creativa dalle necessità materiali, dal pensiero della fame, del freddo e dei pericoli. È pur sempre un'idea, non una realtà. La realtà è qualcosa che bisogna prendere su di sé, con tutto il suo dolore e con tutte le sue difficoltà. E intanto che la si sopporta, la nostra pazienza aumenta. Ma l'idea del dolore, non il dolore vero, che è fruttuoso e può rendere la vita preziosa, quella va distrutta. E se si distruggono i preconcetti che imprigionano la vita come inferriate, allora si libera la vera vita e la vera forza che sono in noi. E allora si avrà anche la forza di sopportare il dolore reale nella nostra vita e in quella dell'umanità. Venerdì mattina, a letto. Correrò questo rischio. Non sono del tutto onesta con me stessa. Dovrò ancora imparare questa lezione e sarà la lezione più difficile, mio Dio. Prendere su di me il dolore che mi imponi tu e non quello che mi sono scelta io. In questi giorni io spendo tante parole per convincere me stessa e gli altri che devo tornare laggiù e che il mio stomaco non è poi così importante. Forse non lo è per davvero, ma quando si ha bisogno di tante argomentazioni c'è qualcosa che non va. Infatti, è così. E ora posso ricominciare da capo a dir forte a me stessa: ma sì, certo, di questi tempi capita a tutti di sentirsi fiacchi e con la testa che gira per qualche giorno, ma quando passa, passa, e allora si continua come se niente fosse. Mi sembra di aver solo bisogno di stendere la mano per tenere in pugno tutta l'Europa, Russia compresa. Così piccolo, chiaro, familiare m'è diventato il tutto. E così vicino, anche in questo letto. Ricordatelo bene, anche in questo letto. Anche se fossi costretta a rimanerci, quieta e immobile, per settimane intere. Ti prometto di vivere pienamente dovunque tu decida di farmi fermare. Ma vorrei tanto partire mercoledì, anche se fosse solo per 2 settimane. Sì, lo so che ci sono dei rischi. Ci sono sempre più SS nel campo e sempre più filo spinato tutti intorno. Le restrizioni aumentano e forse tra 2 settimane non potremo neppure più venire via. Anche questo è possibile. Ti senti di correre questo rischio? Il mio dottore mi ha forse ordinato di stare a letto? Era stupito invece che non fossi ancora ripartita per Westerbork. Ma che cosa c'entra il dottore? Se anche 100 dottori mi dichiarassero in perfetta salute, ma una voce interiore mi dicesse di non andarci, bene, allora non ci dovrei andare. Aspetterò ancora un tuo cenno, mio Dio. Nel frattempo mi dispongo a partire. Tratterò con te. Vuoi? Posso partire mercoledì prossimo? Posso rimanere in quella brughiera per 2 settimane? E se non dovessi star bene, rimarrò qui a curarmi. Accetteresti una transizione simile? Non credo. Eppure vorrei proprio partire mercoledì, per tanti buoni motivi. Adesso sarà bene che dorma un po', anche se non ho affatto finito di parlare con te. Ma so bene che la mia pazienza più vera e più profonda mi ha abbandonata. So anche che la ritroverò quando sarà necessario. E la mia onestà rimarrà sempre con me. Ma ora è tutto molto difficile. Aspetterò fino a domenica. E se non si tratterà di un semplice capogiro passeggero, dovrò essere ragionevole e rimarrò qui. Mi prendo ancora 3 giorni. Ma allora devo anche stare tranquilla, ragazza mia, non fare stupidaggini, non consumare una vita intera in un paio di settimane. Le persone che vuoi raggiungere, le raggiungerai comunque. Non sono quelle 2 settimane che contano. Non scherzare con la tua vita preziosa. Non provocare a bella posta gli dèi che ti hanno organizzato meravigliosamente ogni cosa. Non distruggere il loro lavoro. Mi prendo ancora 3 giorni. Più tardi. Ho la sensazione che la mia vita laggiù non sia ancora conclusa, che non sia ancora diventata un insieme compiuto, come un libro, e quale libro, in cui io sia rimasta a metà. Vorrei tanto continuare a leggere. A volte, quando ero laggiù, mi pareva che tutta la mia vita antecedente fosse stata una preparazione alla mia vita in quella comunità. Eppure, non avevo vissuto piuttosto appartata fino allora. Più tardi, fiorire e dar frutti in qualunque terreno si sia piantati. Non potrebbe essere questa l'idea? E non dobbiamo forse collaborare alla sua realizzazione? Credo che imparerò. Si dovrebbe prendere le distanze da tutti quei nomi che vanno bene per gli specialisti. Non è necessario sapere che si chiama emorragia dello stomaco o ulcera dello stomaco o anemia per sapere cos'è. Probabilmente dovrò starmene coricata per un po', ma non voglio accettarlo e mi invento dei bellissimi ragionamenti per dimostrare che non è una cosa grave e che posso partire mercoledì. Farò così, mi prenderò ancora 3 giorni e se poi mi sentirò sempre ancora prigioniera di questa corazza di debolezza, rinuncerò ai miei progetti presuntuosi. E se lunedì mi sentissi bene, in quel caso andrò da Neuberg e gli dirò nel mio modo più accattivante, già mi vedo, con un sorriso in cui compare un nuovo dente di porcellana bordato d'oro. Dottore, vengo a parlarle come a un amico. Ecco, le cose stanno così, ma vorrei tanto partire, crede che potrei? E so già che mi risponderà di sì. Perché sarò così persuasiva da farglielo dire. Gli farò rispondere quel che mi fa piacere di sentire. È dunque così che vivono gli uomini. Usano gli altri per farsi convincere di qualcosa in cui in fondo non credono. Cercano negli altri uno strumento per coprire la propria voce interiore. Se ascoltassimo solo un po' di più questa voce, se provassimo solo a farne risuonare una dentro di noi, quanto meno caos ci sarebbe. Imparerò ad accettare la mia parte, qualunque essa sia. Quante cose ho già imparato stando a letto stamattina. Sono sempre piuttosto soddisfatta quando un progetto umano ragionevole si rivela pura vanità. Avremmo dovuto sposarci. Eravamo sicuri che in 2 saremmo riusciti a sopportare le miserie di questo tempo. Ora, nel più remoto angolino di quel gran cimitero fiorito di Sorflid, c'è un corpo consunto sotto una pietra. Mi piacerebbe vederla. E io sono prigioniera della mia debolezza e devo starmene coricata in questa stanzetta, che è mia già da quasi 6 anni. Vanità delle vanità. Ma non era vano scoprire in me stessa che ero in grado di aprirmi completamente con qualcuno, di legarmi e di condividere con lui le necessità del momento. Questa non era vanità. E per il resto, non mi ha forse sgombrato la strada che conduce direttamente a Dio, dopo avermela aperta con le sue imperfette mani umane. No, mia cara, non mi piace affatto come il tuo corpo si comporta sotto quelle coperte. Non essere mobili è proprio brutto. E quanto ero mobile, mio Dio, quanto! Ero persino stupita e incantata per come percorrevo le tue strade sconosciute, con uno zaino sulle mie spalle poco esercitate. Era un tale miracolo. All'improvviso mi si erano aperte delle porticine sul mondo, delle porticine che avevo sempre creduto sbarrate. E quanto si erano aperte! Ma ora sono malata, sono proprio malata. Ti concedo ancora 2 giorni e mezzo. In futuro voglio visitarli tutti, uno per uno. Gli uomini che a migliaia sono finiti in quel pezzo di brughiera passando per le mie mani. E se non li troverò, troverò le loro tombe. Non potrò più rimanere tranquillamente seduta alla mia scrivania. Voglio andare per il mondo, vedere coi miei occhi e sentire coi miei orecchi com'è andata a tutti coloro che abbiamo fatto partire. A fine pomeriggio ho camminato un po' per la casa. Chissà, forse andrà meglio del previsto, forse è solo un po' di anemia che potrò sistemare anche laggiù con qualche flaconcino di medicine. Del resto, una persona non deve essere miope e non deve puntare su scadenze troppo ravvicinate. E così pare che il mio caso sia bloccato. Ho chiesto al notaio dalla gamba corta. Ora dovrei fare i salti dalla gioia, vero? Ma io non voglio affatto avere quei foglietti per cui gli ebrei si fanno reciprocamente a pezzi. Perché devono toccare proprio a me? Vorrei trovarmi in tutti i campi che sono sparsi per tutta l'Europa. Vorrei essere su tutti i fronti. Io non voglio, per così dire, stare al sicuro. Voglio esserci. Voglio che ci sia un po' di fratellanza tra tutti questi cosiddetti nemici, dovunque io mi trovi. Voglio capire quel che capita. E vorrei che tutti coloro che riuscirò a raggiungere, so che sono in grado di raggiungerli, fammi guarire, mio Dio, possano capire questi grandi avvenimenti come li capisco io. Sabato mattina, 6:30, in bagno. Comincio a soffrire d'insonnia e questo non va. Stamattina all'alba sono saltata giù dal letto e mi sono inginocchiata alla finestra. L'albero era immobile nell'alba grigia e silenziosa. Ho pregato. Mio Dio, concedimi la pace grande e potente della tua natura. Se vuoi farmi soffrire, dammi il dolore grande e pieno, non le mille piccole preoccupazioni che consumano completamente. Dammi pace e fiducia. Fa che ogni mia giornata sia qualcosa di più che le mille preoccupazioni per la sopravvivenza quotidiana. E tutte le nostre preoccupazioni per il cibo, i vestiti, il freddo, la salute, non sono forse altrettante mozioni di sfiducia nei tuoi confronti, mio Dio? E non ci castighi forse prontamente con l'insonnia o con una vita che non è più una vita? Sono disposta a rimanere tranquillamente coricata per qualche giorno, ma allora voglio essere un'unica grande preghiera, un'unica grande pace. Devo portare nuovamente la mia pace con me. La paziente deve fare vita tranquilla. Pensa tu alla mia pace, mio Dio, dovunque mi troverò. Potrebbe essere che non la sento più perché sto per compiere dei passi sbagliati? Forse, non so. Sono una persona così socievole, mio Dio. Non ho mai saputo quanto. Voglio stare fra gli uomini, fra le loro paure. Voglio vedere tutto da me e capirlo e raccontarlo più tardi. Ma vorrei tanto star bene. In questi giorni mi preoccupo troppo per la mia salute e questo è naturalmente sbagliato. Fa che in me ci sia la stessa grande immobilità che c'era nella tua alba grigia. Fa che la mia giornata sia qualcosa di più che le semplici preoccupazioni per il corpo. Alla fine io ricorro sempre allo stesso rimedio, salto giù dal letto e mi inginocchio in un angolino nascosto della mia camera. Non voglio neppure forzarti la mano, mio Dio. Fammi guarire in 2 giorni. So che tutto deve crescere, che è un lento processo. Ora sono circa le 6:30. Mi laverò dalla testa ai piedi con acqua fredda e poi me ne starò coricata nel mio letto. Starò immobile e non scriverò niente in questo quaderno. Cercherò di stare semplicemente distesa e di essere tutta una preghiera. Già altre volte sono stata così male da credere che ci avrei messo delle settimane per uscirne fuori. E invece, dopo pochi giorni, era tutto passato. Ma in questo momento vivo male e ho un atteggiamento forzato. Se fosse possibile, in qualche modo, mi piacerebbe partire mercoledì. So bene che ora non posso dare molto a una comunità di persone. Vorrei tanto stare un po' meglio. Ma non devo volere le cose, devo lasciare che le cose si compiano in me. Ed è proprio ciò che non sto facendo. Che sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Un po' più tardi. Certo, è il nostro totale annientamento, ma sopportiamolo con grazia. In me non c'è un poeta, in me c'è un pezzetto di Dio che potrebbe farsi poesia. In un campo deve pure esserci un poeta che da poeta viva anche quella vita e la sappia cantare. Di notte, mentre ero coricata nella mia cuccetta, circondata da donne e ragazze che russavano piano o sognavano ad alta voce o piangevano silenziosamente o si giravano e rigiravano, donne e ragazze che dicevano così spesso durante il giorno: non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, altrimenti diventiamo pazze. A volte provavo un'infinita tenerezza. Me ne stavo sveglia e lasciavo che mi passassero davanti tutti gli avvenimenti, le fin troppe impressioni di un giorno fin troppo lungo, e pensavo: su, lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca. Ora voglio esserlo, un'altra volta. Vorrei essere il cuore pensante di un intero campo di concentramento. Sono coricata qui con tanta pazienza e di nuovo calma, e già mi sento assai meglio. Leggo le lettere di Rilke, über Gott, e ogni sua parola è carica di significato per me. Avrei potuto scriverle io stessa. Se le avessi scritte io, le avrei scritte così e non diversamente. Mi sento anche la forza di partire. Non penso più a far progetti e a correre rischi. Andrà come andrà e sarà per il meglio. Sabato pomeriggio, le 4. Ora mi arrendo completamente. Già mi vedo partire mercoledì su queste gambette vacillanti, una cosa proprio triste. Sono così riconoscente di poter stare coricata qui, di poter essere tranquillamente malata e che mi si voglia curare. Prima devo guarire bene, altrimenti sarò solo un peso per una compagnia. Credo proprio di essere un po' malata, dalla testa ai piedi, stretta in una corazza di debolezza e vertigine. Non devo proprio essere infantile o impaziente. Che fretta ho di condividere tutte le miserie degli altri dietro quel filo spinato? E che cosa sono 6 settimane in una vita intera? Il mio cranio è stretto in un cerchio di ferro e sul mio capo pesa un'intera città di rovine. Non voglio essere una foglia malata e avvizzita che si stacca dal tronco della comunità.